Effetto Notte. Le notizie in 60 minuti. Elezioni amministrative verso i ballottaggi nelle grandi città col Movimento 5 Stelle fuori dai capoluoghi. Grillo avverte però non vi illudete, non siamo finiti. Renzi, risultati buoni, Berlusconi, uniti si vince. Russia, proteste contro la corruzione in tutto il paese, la polizia arresta centinaia di persone, fermato anche il leader dell'opposizione Navalny. Emilio Fede, condannato a 3 anni e mezzo per la bancarotta della società di Lele Mora, dovrà risarcire oltre 1 milione di euro. Fabrizio Corona, 1 anno alla condanna per frode fiscale, l'accusa ne aveva chiesti 5, lui esulta in aula. Nuovo stop a Trump, la Corte d'Appello federale conferma il no al bando dell'ingresso di cittadini dai paesi islamici. G7 dell'ambiente a Bologna, c'è l'accordo ma senza gli Stati Uniti su clima e banche per lo sviluppo. Eccoci qua, buonasera ad Alessio Maurizi, ben ritrovati con Effetto Notte, il racconto delle notizie lungo un'ora. E allora cominciamo subito con la prima parte, con le notizie raccontate in alcuni minuti. Naturalmente partiamo dai risultati elettorali il giorno dopo, con i 5 Stelle fuori dai ballottaggi nelle grandi città, il Partito Democratico che tiene, il centrodestra che invece si riscopre competitivo. E ci sono naturalmente le analisi ma anche le dichiarazioni dei protagonisti. Partiamo subito con il fronte dei 5 Stelle. La brusca frenata dei 5 Stelle non spaventa Beppe Grillo, anzi il leader pentastellato rivendica sul suo blog una crescita lenta ma inesorabile. Il Movimento 5 Stelle è stata la forza politica più presente a questa tornata elettorale, scrive Grillo. Gli altri partiti si sono camuffati, soprattutto il PD che si è presentato in circa metà dei comuni rispetto al Movimento. Tutte le prime pagine dei giornali sono però dedicate al fallimento del Movimento 5 Stelle, sottolinea Beppe Grillo. Illudetevi che sia così per dormire sonni più tranquilli. Noi continuiamo ad andare avanti per la nostra strada. Ora Grillo punta a vincere i prossimi ballottaggi delle amministrative, poi conquistare a novembre la presidenza della Regione Sicilia e scegliere il candidato premier per le politiche, perché l'obiettivo, scrive, è andare al governo. Il flop delle amministrative riapre la guerra interna al movimento tra i fedelissimi di Luigi Di Maio e gli ortodossi. Critiche anche sulla linea seguita dalle sindache di Roma e Torino. E sul blog di Beppe Grillo gli iscritti al movimento postano commenti intrisi di delusione e speranza. Guai a mollare, i risultati importanti arriveranno presto, scrivono gli ottimisti. E c'è chi ironizza: Beppe, sorridi, stai vivendo il sogno della tua decrescita felice. Teresa Trillò, Radio 24, Il Sole 24 Ore, Roma. Difficoltà a reperire candidati credibili, forse, o altro. Fatto sta che la defaianza del Movimento 5 Stelle rilancia il Partito Democratico, ma a beneficiarne soprattutto è il centrodestra. Buoni i dati delle amministrative, adesso avanti per i ballottaggi. In visita nei comuni terremotati del Reatino, Matteo Renzi affida ad un messaggio su Facebook il suo commento sul voto. Al Nazareno a fare il punto è invece il vice segretario Martina, secondo il quale il risultato del primo turno testimonia le grandi difficoltà del Movimento 5 Stelle a radicarsi e ad essere credibile, ma non solo. L'unica alternativa a un centrodestra guidato dall'estremismo di Salvini sta nelle proposte che il PD, con le sue coalizioni, col centrosinistra, con le esperienze civiche, mette in campo nei comuni. Il centrodestra vince se unito su programmi liberali, commenta dallo schieramento opposto il leader di Forza Italia Berlusconi. Il vero sconfitto non è Grillo ma Renzi, sottolinea invece il segretario leghista Salvini, che in vista delle politiche manda anche un messaggio al Cavaliere sulla legge elettorale. Se si andasse a votare in autunno noi faremo e faremmo di tutto per avere una coalizione più compatta possibile. Se veramente Berlusconi vuole l'unità del centrodestra, come va dicendo, dovrebbe scegliere un modello maggioritario. Andrea Viali, Radio 24, Il Sole 24 Ore, Roma. Due città chiave sono Genova, ex feudo del centrosinistra, dove in vantaggio al primo turno è invece un candidato di centrodestra, e poi Parma, dove il fu grillino Federico Pizzarotti ottiene una buona affermazione al primo turno, ma al secondo dovrà vedersela sempre con un candidato di centrosinistra. Genova e Parma. Il centrodestra doppia i 5 Stelle nella città di Beppe Grillo e vola al ballottaggio, con il centrosinistra che tiene la posizione nonostante l'arretramento del PD. La formula della coalizione unita premia Marco Bucci, manager all'esordio in politica, che sfiora il 39% e ora sogna di espugnare una città dal 1985 governata ininterrottamente dal centrosinistra. Genova ha voglia di cambiare, Genova ha voglia di diventare una città moderna, una città che pensa al futuro, una città che può essere la prima città del Mediterraneo. Al primo turno Genova registra il record dell'astensionismo, il segno di una città che arranca nella crisi e nell'incertezza. A chi non è andato a votare, in particolare nei quartieri popolari, guarda Gianni Crivello, il candidato del centro-sinistra, senza tessera del PD, distanziato di 5 punti. Guardo innanzitutto agli indecisi e agli astenuti, poi naturalmente noi lanceremo un appello, chi lo vorrà raccogliere sarà ben accetto. Da domani il centrodestra non è più davanti, da domani si riparte dallo 0-0. Andrea Ferro, Radio 24, Il Sole 24 Ore, Genova. È il sindaco uscente Federico Pizzarotti, ex 5 Stelle, ad aver conquistato più consensi a Parma. Per lui, candidato con la lista Effetto Parma, il 34,78% dei consensi. Al ballottaggio anche Paolo Scarpa, candidato del centro-sinistra, che ha conquistato invece il 32,73% dei voti. Solo poco più del 3% per il candidato 5 Stelle Daniele Ghirarduzzi, mentre alla centrodestra Laura Cavandoli il 19,2% dei consensi. In città si è registrato un crollo dell'affluenza sotto il 54%, bassa affluenza 58,9% anche a Verona, dove è in vantaggio il candidato del centrodestra, Federico Sboarina, che ha conquistato il 29,26% dei consensi. Per tutta la notte è stata battaglia per lo sfidante, alla fine l'ha spuntata Patrizia Bisinella, candidata della Civica Fare e compagna di Flavio Tosi. Per lei il 53,54% dei consensi, poco più rispetto alla candidata Dem Orietta Salemi. Katia Caramelli, Radio 24, Il Sole 24 Ore. E voto anche in Francia. Ieri il risultato ottenuto dalla République en Marche al primo turno delle elezioni politiche della Francia segna l'adesione alle riforme promesse dal presidente Macron. Così oggi il ministro dell'Interno, che è anche tra i primi sostenitori di En Marche, Gérard Colomb. Ma come hanno reagito i mercati finanziari non solo al voto italiano ma anche al trionfo di En Marche in Francia? Sentiamo. I segnali di stabilità politica sia in Italia sia in Francia emersi nel weekend elettorale nei due paesi si sono tradotti sui mercati finanziari in acquisti sui titoli di Stato, anche della periferia europea, e in un restringimento degli spread, fattore che suggerisce una riduzione dei rischi percepiti nel breve termine, mentre è stato solo temporaneo l'effetto positivo sull'euro, tornato sopra 1,12 dollari. Gli acquisti sul BTP decennale italiano hanno portato il rendimento ai minimi da gennaio, vicino al 2%, e ridotto il differenziale con il Bund tedesco, che era quota 200 punti solo una settimana fa, intorno ai 175 punti. La battuta d'arresto del Movimento 5 Stelle nelle elezioni amministrative, anche perché accompagnata in Francia dal ridimensionamento del Front National e dal trionfo del partito del neo presidente della Repubblica, è stato letto dagli operatori come segno di indebolimento delle forze più critiche verso l'Europa. In Francia è proseguito l'effetto Macron sui titoli di Stato, con il rendimento dei decennali tornato allo 0,6%. Da Radio Corpo e Radio 24, Andrea Fontana. E intanto per l'Italia c'è la nota positiva che riguarda la nostra economia del Fondo Monetario Internazionale, che rivede al rialzo la crescita per quest'anno. Il PIL salirà dell'1,3% contro 0,8% che era invece nelle ultime stime. Il leader dell'opposizione russa Alexei Navalny è stato arrestato oggi davanti alla sua casa a Mosca, poco prima dell'inizio della protesta anticorruzione che lui stesso aveva organizzato nel giorno, tra l'altro, delle celebrazioni per la festa nazionale russa. Centinaia gli arresti, 750 a Mosca, 950 a San Pietroburgo, sono stati effettuati dalle autorità tra i partecipanti alle due manifestazioni contro la corruzione nel paese. Restiamo all'estero, andiamo negli Stati Uniti, dove c'è stato un nuovo stop al bando dell'amministrazione Trump contro gli ingressi dai paesi islamici. La Corte d'Appello del Nono Circuito Federale ha infatti confermato sostanzialmente lo stop anche alla seconda versione del bando anti-musulmani voluto da Donald Trump. Tema immigrazione, ma dal versante europeo. Si va verso l'apertura della procedura di infrazione per Ungheria, Polonia e Repubblica Ceca sui mancati ricollocamenti dei profughi che vengono dall'Italia e dalla Grecia. E ora veniamo invece in Italia con la cronaca. Oggi la sentenza su Fabrizio Corona. Lo scorso 10 ottobre, dopo il ritrovamento di oltre 2 milioni e mezzo di euro in contanti in un controsoffitto di casa sua e in parte in cassette di sicurezza in Austria, Fabrizio Corona era stato nuovamente arrestato mentre era, ricorderete, in affidamento in prova ai servizi sociali. Oggi la condanna. ha esultato, picchiando i pugni sul tavolo e abbracciando il proprio legale, prendendosi anche un rimprovero dal giudice che stava ancora leggendo la sentenza. Fabrizio Corona, tra gli applausi e qualche grido da parte dei conoscenti che erano in aula per sostenerlo, è stato assolto dall'accusa di intestazione fittizia di beni e da quella di violazione delle norme patrimoniali. Per l'ex re dei paparazzi ha retto solo l'imputazione di sottrazione fraudolenta al pagamento delle imposte, che gli è valsa una condanna a un anno di carcere rispetto ai 5 chiesti dall'accusa nel processo, con al centro circa 2,6 milioni di euro in contanti, trovati in parte in un controsoffitto e in parte in cassette di sicurezza in Austria. In aula Corona ha letto ai giudici un messaggio riportato ai cronisti dal suo legale Ivano Chiesa. Fabrizio ha ripercorso questa vicenda, l'ha definita il teatro dell'assurdo, ha detto in sostanza: quando si tratta di me tutto viene esagerato, tutto viene ingigantito. 6 mesi invece è la pena decisa per la collaboratrice di fiducia di Corona, Francesca Persi, anche lei rimasta coinvolta nella vicenda insieme all'ex manager dei paparazzi. Adriano Palazzolo, Radio 24, Il Sole 24 Ore. E i giudici del Tribunale di Milano hanno anche condannato Emilio Fede a 3 anni e mezzo di carcere per concorso in bancarotta nell'ambito della vicenda legata al fallimento della società di Lele Mora, che è uscito dal procedimento con un patteggiamento. L'ex direttore del TG4 avrebbe inoltre dirottato a suo favore la somma di 1,1 milione di euro dal denaro stanziato da Silvio Berlusconi per salvare la società di Lele Mora. Mora infatti prima di fallire aveva chiesto un aiuto economico a Berlusconi, che gli aveva dato quasi 3 milioni di euro. Il tribunale ha stabilito che Emilio Fede dovrà risarcire per intero la somma di 1 milione e 110 mila euro. Siamo allo sport con il calcio e in qualche modo ancora gli echi della sconfitta della Juventus in Champions League. Dovessi vincere la Champions, rinvierei di un anno il mio ritiro. Così il portiere della Juve della Nazionale Gigi Buffon, che oggi ha rivelato tra l'altro a Sky Sport 24 l'accordo verbale messo appunto col presidente dei bianconeri Andrea Agnelli. Se vinciamo, se dovessimo vincere la Champions, potremmo pensare di proseguire per un anno per cercare di fare, partecipare, cercare di vincere a altre due competizioni che ne conseguono per il doppio Champions, no? E quindi questo sarebbe era il discorso col quale ci lasciamo e che ogni volta rinverdiamo, no? Visto che quest'anno sarebbe stato troppo facile, è troppo bello, è troppo facile vincerla. Saremo lì aggrappati anche l'ultimo anno a vedere cosa accadrà, dai. Sono 21:16 minuti, questo è Effetto Notte, il racconto delle notizie in 60 minuti. 349-238-6666, ci risentiamo tra poco dopo il traffico. Effetto Notte, le notizie in 60 minuti. Amministrative verso i ballottaggi nelle grandi città, Movimento 5 Stelle fuori dai capoluoghi, ma Grillo avverte: non vi illudete, non siamo finiti. Russia, proteste contro la corruzione in tutto il paese, la polizia arresta centinaia di persone, fermato anche il leader dell'opposizione Navalny. Emilio Fede, condannato a 3 anni e mezzo per la bancarotta della società di Lele Mora, dovrà risarcire oltre 1 milione di euro. Fabrizio Corona, 1 anno la condanna per frode fiscale, l'accusa però ne aveva chiesti 5 e lui esulta in aula. G7 dell'ambiente a Bologna, c'è l'accordo ma senza gli Stati Uniti su clima e banche per lo sviluppo. E ripartiamo dai risultati delle elezioni amministrative, soprattutto in vista dei ballottaggi fra due domeniche, con le dichiarazioni politiche, le analisi naturalmente e anche gli scenari futuri. Però prima facciamo un piccolo riepilogo per chi non avesse magari il quadro completo di quello che è successo. E allora partiamo con i risultati accertati. A Palermo, per esempio, il centrosinistra vince con Leo Luca Orlando al primo turno con un 46,3% contro Fabrizio Ferrandelli di centrodestra, in virtù tra l'altro di una modifica del sistema elettorale che consente la vittoria al primo turno con superando la soglia del 45%. A Cuneo anche vittoria al primo turno sempre per il centrosinistra, che in generale è in partita in tutti e 19 i principali capoluoghi di città. Vince al primo turno in Campania in piccole città come Pozzuoli, Portici, Pompei e Ischia. Il PD è in testa in diversi ballottaggi in città come L'Aquila, per esempio Lucca, Alessandria, Pistoia, Lodi, anche a Monza, dove in realtà c'è un testa a testa tra il candidato di centrosinistra Scanagatti, 39,9%, e Allevi, che ha il 39,8%, quindi una differenza risicatissima. Però c'è da dire che nel centrosinistra molti ballottaggi potrebbero essere, sono a rischio, perché il PD arriva secondo in città che prima invece amministrava, come accade a Genova, dove Marco Bucci di centrodestra col 38,8% è in testa davanti a Giovanni Crivello col 33,4%. Poi stessa cosa accade alla Spezia, Rieti, Taranto, Piacenza, Como e Oristano, città che il Partito Democratico, il centrosinistra, amministrava, ma che al primo turno il Partito Democratico è arrivato al secondo posto, quindi c'è una rimonta da effettuare. Nonostante questo, Renzi parla di risultati buoni. Sentiamo il vice segretario del PD Martina. Questi dati del primo turno dimostrano in maniera inequivocabile che l'unica alternativa a un centrodestra guidato dall'estremismo di Salvini sta nelle proposte che il PD, con le sue coalizioni, col centrosinistra, con le esperienze civiche, mette in campo nei comuni. Sul fronte del centrodestra invece i partiti che fanno parte di questa alleanza, fondamentalmente Forza Italia, Fratelli d'Italia e Lega, si ritrovano competitivi, forse inaspettatamente competitivi. Vittoria al primo turno per esempio a Frosinone, dove Nicola Ottaviani ottiene il 56,3% davanti a Fabrizio Cristofari col 27,3%. È in testa il centrodestra al ballottaggio in città come Verona, Taranto, Lecce, Padova, Catanzaro, ma anche Piacenza, Como, Rieti, Gorizia e Asti. Sentiamo Salvini, Matteo Salvini della Lega. Tutte le città erano uscenti del Partito Democratico e del centrosinistra: Genova, Spezia, Alessandria, Como, Monza, Lucca, Piacenza. Hanno preso una mazzata non da poco. Renzi gode del fatto che forse Grillo è andato peggio di lui, però secondo me lo sconfitto è Renzi ed è un governo che non rappresenta più niente nessuno. Diamo una prospettiva alle case, a chi abita nelle case popolari di Genova, a chi vive vicino alla stazione di Padova o ai giardini Margherita di Piacenza, di possibilità di cambiamento. Per quanto riguarda il Movimento 5 Stelle, come detto, è fuori dai ballottaggi che contano, soltanto in 8 comuni su 160, se abbiamo fatto bene i conti, vedrebbero il movimento fondato da Beppe Grillo in corsa per l'elezione del sindaco. Tra questi comuni ci sono le principali: Carrara, Asti e Guidonia, anche Acqui Terme. A Parma, come sapete, l'ex sindaco del Movimento 5 Stelle Pizzarotti ottiene un buon risultato, va al ballottaggio con un 34,8% contro il 32,8% del candidato di centrosinistra Paolo Scarpa. Poi ci sono delle situazioni particolari, come per esempio a Trapani, dove la tipicità siciliana si esprime con la vittoria di, diciamo, la vittoria è in testa il candidato del centro Girolamo Fazio su candidato di centrosinistra Pietro Savona. Poi a Belluno, che rappresenta forse un altro pianeta per il resto d'Italia, perché città, come sapete, in cima alle classifiche della qualità della vita, si confronteranno al ballottaggio non il centrodestra, il centrosinistra, il Movimento 5 Stelle, ma ben due liste civiche: quella di Jacopo Massaro con la lista civica in Movimento e quella di Paolo Gamba, la lista civica Belluno. È di tutti davvero un altro pianeta forse. E allora salutiamo, diamo il benvenuto a Barbara Fiammeri, buonasera. Salve, buonasera. Barbara, benvenuta, editorialista del Sole 24 Ore, e naturalmente quando si parla di politica la tua è la voce che sentiamo. Barbara, Renzi ha parlato di risultati buoni, però abbiamo visto ci sono delle sfumature, perché il centro-sinistra in realtà deve inseguire in molte città. Sì, non c'è dubbio che il centro-sinistra in questo primo turno di amministrative ha un risultato, come dire, di stabile, anche se va verso il basso, nel senso che, come appunto tu dicevi poc'anzi, in alcune città, a partire da Genova, città storicamente rossa da sempre, vede invece il candidato del centrodestra in vantaggio sul candidato del centrosinistra, e lo stesso anche in altre realtà. Quindi al secondo turno potremmo assistere a, come dire, il verdetto potrebbe andare verso una sconfitta più che verso un pareggio, comunque un risultato stabile, come diceva poco fa Martina, dicendo appunto siamo l'unica alternativa al centrodestra salviniano. Detto questo, trasportare questo dato delle amministrative a livello nazionale, a mio parere, è azzardato, in quanto il primo dato di cui bisogna tener conto è la legge elettorale. Ancora una volta mi spiace per i nostri ascoltatori dover parlare di legge elettorale, ma è evidente che in un sistema come quello per i sindaci noi abbiamo un sistema che è maggioritario. C'è una spinta certo a polarizzarsi. Sì, c'è una spinta e c'è soprattutto la scelta di chi governa la città, sì. E dove la figura del candidato è importante. Abbiamo visto per esempio che a Palermo, più che la vittoria del centro-sinistra, è la vittoria di Leo Luca Orlando, e abbiamo visto allo stesso tempo che io credo che l'arretramento dei 5 Stelle non sia tanto, sicuramente è dovuto anche a tutta una serie di divisioni interne, ma è secondo me frutto soprattutto della debolezza dei candidati pentastellati. E quindi di qui l'invito a non fare delle trasposizioni a livello nazionale, perché invece a livello nazionale noi molto probabilmente andremo a votare con un sistema proporzionale, dove verrà premiata la lista, il partito, il simbolo, e dove credo che, in questo Grillo ha ragione, il Movimento 5 Stelle farà ancora sentire forte la sua voce. Quindi è troppo presto, è azzardato tirare delle conclusioni, 2 più 2 non fa 4 in questo caso, perché chiaramente con un sistema elettorale diverso si vota per riaffermare un'identità a livello nazionale, lo si sa, su una base di movimenti di opinione, i candidati contano meno, e quindi sono queste le considerazioni. Barbara Fiammeri, invece, parleremo tra un attimo, tra l'altro, con un ospite importante dell'area del Movimento 5 Stelle, ma per quanto riguarda il centrodestra, che si ritrova vitale, quasi competitivo, forse inaspettatamente anche da un certo punto di vista, sono meriti propri o invece beneficia più dei difetti altrui, cioè le divisioni all'interno del Partito Democratico con la scissione articolo 1 e le incertezze amministrative a Roma, a Torino dei 5 Stelle, o anche semplicemente la questione della legge elettorale con la retromarcia che magari alcuni elettori del 5 Stelle non hanno gradito. Quindi meriti del centrodestra o difetti altrui? Ma diciamo un po' tutte e due le cose, insomma è come in una partita di calcio, no? Se qualcuno va in vantaggio sicuramente è merito dell'attaccante che segna, ma anche della difesa che non protegge bene la propria porta, quindi valgono un po' tutti e due i ragionamenti. Diciamo che anche il centrodestra, pur uscendo con un risultato più che lusinghiero da queste elezioni, in realtà appunto è diviso al suo interno. Abbiamo visto oggi Salvini che immediatamente è tornato a dire sì, vince il centrodestra, ma purché sia a trazione leghista, e Berlusconi che risponde attenzione, non è così, il dato non va assolutamente confuso, Forza Italia resta il partito con più voti della coalizione. Quindi anche in questo caso mi viene a dire, mentre un sistema maggioritario imporrebbe, come ai tempi del Porcellum, quando nacque il PDL, imporrebbe di allearsi inevitabilmente per voler, se si certo. vuole davvero competere per governare, con un sistema proporzionale ognuno può decidere di andare per proprio conto, soprattutto quelle forze politiche che hanno la certezza di superare gli sbarramenti attualmente previsti dalle due leggi uscite dalle sentenze della Consulta, e quindi io non vedo anche in questo una prospettiva immediata di unità del centrodestra, ma vedo le stesse divisioni che c'erano alla vigilia del voto. Benissimo, allora staremo a vedere. Naturalmente accontentiamoci intanto di commentare tra un paio di settimane, poco meno, il risultato in queste importanti città, dove comunque i sindaci sono ancora tutti da assegnare, come è da assegnare la poltrona di primo cittadino di Parma, dove però in testa è il sindaco uscente Federico Pizzarotti, che è con noi. Buonasera, lo ringrazio. Buonasera. Eccolo qua. Allora Pizzarotti, lei quando arrivò a Parma ormai 5 anni fa trovò un comune disastrato, sull'orlo del fallimento, più che sull'orlo del fallimento, perché c'era un vero e proprio fallimento, con anche sentenza del tribunale, eccetera, eccetera. Lei ha nel frattempo ha un'esperienza di amministrazione che ha ottenuto il gradimento degli elettori, se no non sarebbe qua. Cosa pensa che sia stato più apprezzato di questi anni di esperienza politica, che sono stati intervallati da importanti polemiche a livello nazionale con il Movimento 5 Stelle, da cui lei proviene, in cui in parte fa, direi quasi fa ancora parte? Ma allora no, bene, noi non facciamo più parte del Movimento già dallo scorso anno, per tutto un percorso che insomma è anche forse poco interessante ormai, visto che ce lo siamo lasciati alle spalle. Oltre al debito, penso che la grande cosa, cioè il debito risolto, l'altra grande cosa che ci viene riconosciuta è sicuramente il merito dell'onestà e della trasparenza, che comunque, questo sì, viene da dei valori che per noi non sono cambiati. Però 5 anni ci hanno dato una competenza maggiore, ci hanno fatto creare questa lista civica che si chiama Effetto Parma, che ha messo al centro le persone della città. Infatti noi abbiamo, quando c'è stato da scegliere, abbiamo scelto la città e i suoi cittadini a fronte, come dire, del movimento, del partito, di quello che poteva essere anche una convenienza personale prospettica. Questo la dice lunga su quello che dicevate prima, cioè sui sindaci che scelgono le proprie comunità, perché sono i primi interlocutori delle proprie comunità. Infatti il vero peccato, il vero campanello d'allarme di queste elezioni è la bassa affluenza rispetto a quello che avviene normalmente nei comuni. Bassa, veramente notevolmente bassa, troppo bassa. Di fatto c'è un contagio, io l'ho tradotto così, un contagio del governo nazionale, cioè del governo, il livello nazionale, che sicuramente gode di pochissima fiducia, è stato poi contagiato il livello regionale, adesso si comincia ad attaccare anche il livello locale. E questo è un peccato, perché i sindaci sono veramente l'ultimo baluardo a cui consegnare le proprie speranze, a cui chiedere di risolvere la risoluzione dei problemi. Nella sua città, tra l'altro, il risultato, l'affluenza è 53,68%, leggermente più alta che in altre città, per esempio Genova, dove siamo scesi addirittura sotto la soglia del 50%, però non altissime. Dicevo, Federico Pizzarotti, che in qualche modo si identifica ancora con l'area del Movimento 5 Stelle, anche se naturalmente non ha più nulla a che fare dal punto di vista strettamente del partitico, però bisogna pur dire che il Movimento 5 Stelle a Parma ottiene il 3%, quindi di fatto quello spazio lì è occupato da lei. Come spiega quella che comunque a tutti gli effetti a livello di elezione amministrativa è una sconfitta del Movimento 5 Stelle a queste elezioni? Ma soprattutto perché, ad esempio, nel nostro caso, ma come in altri comuni, noi abbiamo fatto dei programmi per la città che a 360 gradi analizzavano le problematiche, facevano proposte sulla città, mentre in tanti casi le liste del Movimento parlavano di temi nazionali, forse perché impreparate sulle tematiche locali, ed erano soprattutto contro qualcuno. Nel nostro caso erano contro di noi, in altri casi erano contro gli altri schieramenti politici. Cioè ci vogliono, traduco, scusi, perché così anche per banalizzare, ma per semplificare, andare all'osso, ci vogliono candidati credibili e non tante chiacchiere, come per esempio, possiamo fare un paragone su Genova, dove la chiusura della campagna elettorale è stata affidata a Grillo e Di Maio, il candidato non se l'è filato nessuno. Infatti questo è il punto, è anche dei big nazionali, questo vale anche per gli altri schieramenti. Servono persone credibili, conosciute per il loro impegno nel territorio, quindi nella città, nello specifico, e non artifici creati dall'alto. Quando avviene questo, in generale si vince; quando avviene altro, in generale si perde. Questo vale, penso, in tutta Italia. Per quello che noi abbiamo lavorato alacremente in questi 5 anni, alla risoluzione di tanti problemi e a delle proposte di rilancio, perché una volta sistemati i problemi e i debiti, parte una fase che è sicuramente quella del far veramente capire qual è la nostra capacità amministrativa. Per quello ci siamo candidati, insomma, speriamo di raggiungere il risultato tra 15 giorni. Lo so che lei adesso è concentrato sul ballottaggio, però e che non vuol tornare tutte le volte a parlare di politica nazionale, però come è stato osservato, ed è evidente, uno dei problemi del Movimento 5 Stelle è non avere una dialettica interna, una opposizione, eccetera, eccetera. Ci sono spazi di fatto politici per chi di quell'area politica volesse però in qualche modo delle correzione di rotta rispetto alla linea Grillo-Casaleggio. Se glielo chiedessero, lei sarebbe disposto a far parte di questa, di un movimento di questo tipo a livello nazionale o a guidarlo addirittura? Ma io penso che adesso, come dire, noi ci siamo candidati su Parma ed è quello il, quindi per 5 anni io sono mentalmente e operativamente impegnato, e poi penso che a livello nazionale debbono cambiare ancora molte cose in realtà prima che si liberi questo spazio. Come dicevate voi prima, sui comuni si votano le persone, a seconda della grandezza del comune si votano un po' anche gli schieramenti, ma è diverso a livello nazionale dove si vota solamente il simbolo. Quindi io penso che adesso a livello nazionale il Movimento 5 Stelle, anche con queste debacle, comunque mantenga la sua percentuale, e che finché non vincerà non cambierà questo tipo di percentuale di gradimento, mentre quando vincerà penso che si vedranno, come si è visto nel locale, le vere criticità dovute sia alla mancanza di confronto interno, ma anche alla mancanza di elaborazione dei problemi reali, dove adesso si va molto per slogan. Quindi io penso che questo serva ancora del tempo da quella parte, ma anche dall'altra parte. Lo dico io a questo Berlusconi punto. Che tiene bloccato dei voti, e la Lega, che sicuramente non può sfondare al sud perché è evidente che è nata con un altro intento, questo PD che perde pezzi, io penso che nello scenario italiano debba cambiare ancora molto prima ecco, di quindi volendo sintetizzare, volendo diciamo anche qui tirare un titolo, se dovesse vincere il ballottaggio, dal suo punto di vista incrocerà le dita naturalmente in questo momento, certo. Pizzarotti avrà 5 anni da fare il sindaco di Parma, ma in questi anni potrebbe anche in qualche modo maturare uno scenario politico nazionale per vederlo poi impegnato anche in un altro ruolo. Grazie per ora Pizzarotti, buona serata. Grazie mille, buona serata a voi per essere stato con noi. 349-238-6666. Meteo, torniamo tra pochissimo con Effetto Notte. Vaccini, il decreto della discordia. È giusto obbligare alla vaccinazione? È giusto escludere dalle scuole i bambini che non sono coperti? Il viaggio di Radio 24 all'interno del dibattito che divide le famiglie. Tutte le mattine alle 7 su Radio 24 e su radio24.it. Effetto Notte, le notizie in 60 minuti. Alle 21.40 di nuovo buonasera ad Alessio Maurizi, cari ascoltatori, e continuiamo ad analizzare il post voto, soprattutto le dichiarazioni in vista del voto per i ballottaggi tra 2 settimane. E allora abbiamo appena finito di parlare col candidato sindaco uscente di Parma, Federico Pizzarotti, con cui abbiamo parlato molto del Movimento 5 Stelle. Il focus di questo risultato elettorale è Genova, e allora in collegamento con noi un collega, Ferruccio Sanza. Buonasera. Buonasera a voi. Giornalista del Fatto, cronista genovese, ha seguito spesso e volentieri le vicende del Movimento 5 Stelle. Andiamo subito al dunque, possiamo ricordare il risultato elettorale che è questo: Marco Bucci, centrodestra 38,8%, Giovanni Crivello, centrosinistra 33,4%, Pirondini, Movimento 5 Stelle 18%. Di fatto il Movimento 5 Stelle diventa ago della bilancia in vista del ballottaggio, ma Ferruccio, quanto è grave questa sconfitta per il Movimento 5 Stelle nella casa madre, diciamo così? C'è sicuramente l'attenuante, o se vogliamo l'aggravante, del caso Cassimatis, il candidato prima votato, poi estromesso da Grillo, quindi tutta questa questione, il ricorso eccetera eccetera, che ha creato una peculiarità, però di fatto la sconfitta c'è. Quanto è grave questa sconfitta per Grillo? Ma guardate, io credo che sia necessario dividere la questione in due parti. La prima riguarda il Movimento 5 Stelle. Da Genova sono venuti al pettine i nodi principali di quella che potrà essere il destino dei 5 Stelle, cioè si saprà o meno correggere alcuni difetti che ha, cioè sostanzialmente la selezione della classe dirigente. Erano mesi che si diceva questo, l'abbiamo scritto anche noi, cioè a Genova non c'era stata una selezione della classe dirigente e c'erano invece delle lotte terrificanti, intestine, i consiglieri regionali contro quelli comunali che poi hanno lasciato 5 Stelle, i genovesi contro i savonesi contro le Spezzini, un disastro totale che ha portato a una situazione paradossale. I 5 Stelle sono il primo partito a Genova e in Liguria, anche in diverse zone della Liguria, e hanno perso tutto, non sono mai neanche arrivati al ballottaggio. Hanno perso senza secco per la regione Liguria, hanno perso al primo turno il comune di Savona, adesso hanno perso Genova e La Spezia. ma non solo hanno perso, il problema è che facendo da tappo per l'opposizione hanno di fatto garantito la sopravvivenza di centrodestra e centrosinistra, cioè i post scaioliani e post burlandiani, per cui anche se io a Genova in Liguria il Movimento 5 Stelle ha sollevato delle questioni molto importanti, dal cemento alla corruzione, l'andrangheta, è stato importante, però dopo il 2015 è stato dilaniato dalle lotte intestine, per cui tutti questi buoni propositi sono andati un po' a farsi benedire e il Movimento 5 Stelle di fatto ha garantito la sopravvivenza della vecchia politica che era nato per combattere. Quindi un effetto paradossale. La seconda cosa che mi verrebbe da dirvi è a Genova il risultato che potrebbe verificarsi è un risultato nel nostro piccolo orizzonte epocale, ma non forse anche a livello nazionale ha un suo significato, cioè potrebbe essere la prima volta negli ultimi 70 anni che vince il centrodestra e che Genova, che c'è una città rossa, si risveglia leghista. Ma guardate, rossa, quindi non credo che di Genova, come forse per Bologna, si possa dire, nel senso che è soltanto una città legata a un partito, cioè con, diciamo, un rapporto di tipo anche politico. Se Genova ha un legame che è un legame diciamo culturale, nasce dalla resistenza prima ancora che dal legame col partito, sarebbe uno shock terribile. E io credo che a questo punto, adesso tutti puntano il dito, anche noi l'abbiamo fatto sul fatto, tutti puntano il dito sui 5 Stelle, ma ovviamente il principale responsabile di questa situazione è il Partito Democratico e il centrosinistra che ha governato Genova da sempre. Però Ferruccio, a questo punto pensi che Pirondini darà un'indicazione? È improbabile, impossibile? Come pensi che verranno gestiti questi voti importanti del Movimento 5 Stelle in questo ballottaggio? Ma guardate, io credo una cosa che anche qui bisogna distinguere. La prima cosa è che obiettivamente credo difficile che i 5 Stelle facciano riverso in un loro voto sul centro-sinistra, perché il centro-sinistra appunto rappresenta quella politica che giustamente in Liguria i 5 Stelle hanno voluto combattere, perché il PD era tutto in Liguria. Guardate, non so se è facile rendersene conto stando fuori, ma ci sono stati momenti in cui alle associazioni di Claudio Burlando, per esempio la fondazione di Claudio Burlando, fondazione politica, facevano parte tutti in città, cioè gli imprenditori del Mattone, gli imprenditori del Porto, ma anche i Camalli, cioè la loro tra virgolette controparte. Quindi al sistema ligure no, al sistema ligure no. Dall'altra parte? No. Dall'altra parte, però, guarda, paradossalmente, adesso tanti di quelli che prima frequentavano il PD e il burlandismo sono passati in massa tutti con Bucci. E credo difficile, cioè, e comunque diciamo questo centrodestra è figlio anche dello scaiolismo degli anni, insomma, non credo. Quindi, d'altra parte, va detto una cosa, scusate, sì, questo è, secondo sì, me interessante, questo cambiamento, mutazione genetica dei 5 Stelle, cioè in Liguria i 5 Stelle sono sempre stati più sinistra, diciamo legati alla sinistra di quanto non fosse in Veneto, cioè, forse il segreto dei 5 Stelle che sono un partito un po' polimorfo, cioè in Liguria erano più vicini al centro-sinistra come ispirazione ideale. Io sono stato all'ultima manifestazione di chiusura della campagna elettorale qui a Genova e ho notato un cambiamento profondo. C'erano molti ex leghisti, c'erano alcuni ultra delle squadre di pallone, è cambiato, cioè anche il 5 Stelle genovese è diventato più vicino al centrodestra, più compatibile col centrodestra. Voti sì, in libera uscita, quindi staremo a vedere se ci sarà un'indicazione, probabilmente non ci sarà. No, io credo che nessuno darà indicazioni, esatto, se, è diciamo, quello sarà che tutto diciamo, lasciato agli elettori. È quello che ci si può immaginare. Grazie a Ferruccio Sanza per questa analisi, comunque importante, avete sentito, insomma, nel passaggio dal voto d'opinione nazionale alla scelta del candidato, alla votazione di un candidato concreto, il Movimento 5 Stelle alla prova di Genova, sostanzialmente si è incagliato. Per usare una metafora marinara, tipica di quella città. 349-238-6666, ancora uno spazio di tempo per sentire i vostri commenti all'SMS, anche su WhatsApp. Naturalmente adesso facciamo una pausa per le informazioni sul traffico, poi torniamo, sentiamo anche un candidato di centrodestra. A questo punto, se è già in collegamento, lo saluterei. Federico Sboarina, candidato a Verona in testa in questo momento con il 29,3%. Complimenti intanto per questa parziale affermazione, Sboarina, e ne parliamo tra un attimo. Effetto notte, le notizie in 60 minuti. Allora, eccoci qua di nuovo alle 21.49 minuti. Buonasera ad Alessio Maurizi e ci sono i vostri commenti. Ascoltatori al 342-238-6666. In definitiva, scrivete, sempre colpa dei 5 Stelle. Avete i politici che vi meritate. No, non è che stiamo dando la colpa ai 5 Stelle, stiamo analizzando quello che è un risultato elettorale, dove a Genova il 5 Stelle si piazza al terzo posto. Oppure ancora il PD si presenta in coalizione con una carrettata di liste, il Movimento 5 Stelle si presenta da solo e quindi come se fosse un attenuante. Però le regole elettorali sono queste e alla fine vince chi si piazza per primo. Abbiamo già salutato Federico Sboarina, di nuovo buonasera, grazie per essere con noi. Candidato di centrodestra in testa a Verona, davanti tra l'altro a un altro candidato di centrodestra come Patrizia Bisnella, che fa parte della lista del sindaco uscente Fare, oltre a essere anche sentimentalmente legata a Tosi. Ma non di questo però vogliamo parlare, se non del fatto che il centrodestra, come è stato detto, se si presenta unito, Sboarina si ritrova competitivo. Questo vale tanto più in una città che è un feudo normalmente del centrodestra come Verona? Sì, direi, intanto buonasera ancora a tutti. Direi di sì, assolutamente. Poi quello che abbiamo fatto noi a Verona è una cosa assolutamente particolare, nel senso che appunto c'è questo unicum di un sindaco uscente che era di un'area, appunto quella del centrodestra, e quindi alla fine ci ritroviamo al ballottaggio tutto il centrodestra unito, che appunto ha espresso la mia candidatura, e poi il sindaco uscente. Io penso che quello che abbiamo fatto noi, che poi alla fine è una cosa assolutamente normale, cioè quella che dovrebbe essere fatta, ma che ahimè purtroppo non si fa quasi mai. Cioè siamo partiti da un programma, da un progetto amministrativo, l'abbiamo costruito insieme, attorno a quello ci siamo ritrovati, abbiamo costruito la coalizione in centrodestra e una volta fatta la coalizione abbiamo individuato il candidato sindaco. Diciamo un percorso normale, perché si dovrebbe partire sempre dai programmi, dai progetti. Purtroppo tante volte si fa esattamente il contrario, cioè ci si mette insieme per vincere e poi si discute dopo dei programmi, finendo a litigare dal primo giorno. Quindi è un progetto serio, un laboratorio vero che abbiamo costruito nei mesi, negli anni scorsi, e che ci ha dato alla fine del primo tempo, diciamo così, delle grandi soddisfazioni, perché non c'era niente di scontato, era una partita molto complicata, molto articolata, aver raggiunto praticamente il 30% è un risultato di grande soddisfazione. Staremo a vedere, insomma, anche in questo caso al secondo turno, Sboarina 29%, Bisnella 23%, poi c'è il centrosinistra che ottiene un 22% con la candidata Orietta Salemi, e anche qui a sottolineare il risultato scarso, il Movimento 5 Stelle, che a livello nazionale è accreditato di essere forse addirittura il primo partito in Italia, qua a Verona ottiene un modesto 9,5% col candidato Gennari che si piazza solo al quarto posto. Io ringrazio Federico Sboarina ancora una volta per essere stato con noi. Il tempo non era moltissimo a disposizione, ma ci sono un altro paio di notizie prima di chiudere, naturalmente, che vogliamo commentare, e una di queste riguarda il G7 dell'ambiente che si è chiuso a Bologna proprio nella giornata di oggi con un accordo all'unanimità tra i grandi paesi in tema di ambiente, ma senza la partecipazione da questo punto di vista degli Stati Uniti sul tema del clima e delle banche per lo sviluppo. E allora Jacopo Giliberto, buonasera, benvenuto intanto. Buonasera a tutti. Ciao Jacopo, collega del Sole 24 Ore che si occupa di temi ambientali e che conoscete naturalmente. Jacopo, ma senza accordo sul clima, che accordo è allora? L'accordo è molto interessante. Oggi a Bologna il documento che hanno firmato e sottoscritto i sette grandi più l'Unione Europea è un documento assai articolato. Noi vogliamo il sostegno dell'Africa, noi sosterremo, noi contro l'inquinamento del mare e l'immondizia che sta riempiendo gli oceani e così via. Sul dettaglio del cambiamento climatico, noticina a piede di pagina, non sono più noi ma Italia, Francia, Germania, così via, non gli Stati Uniti, i quali hanno una noticina a piede pagina che dice sostanzialmente: siamo d'accordo su tutto, ci piace tutto quanto, faremo anche noi le nostre iniziative insieme con voi, però non siamo d'accordo che l'accordo di Parigi, quello contro i cambiamenti climatici fatto nel dicembre 2015 a Parigi, secondo noi non è l'unico strumento. Esatto, utile. Anche perché questo bisogna ricordarlo, gli Stati Uniti, oggi Scott Pruitt, responsabile dell'Agenzia dell'Ambiente, lo ha detto di nuovo, abbiamo altri strumenti per proteggere l'ambiente. È credibile questo tipo di dichiarazione secondo te in 30 secondi, Jacopo? Ma probabilmente più di quello che noi siamo soliti pensare, probabilmente abbastanza credibile, nel senso che gli Stati Uniti hanno sempre, ma già dai tempi di Clinton, hanno sempre evitato di prendere grandi impegni multinazionali, multilaterali, però le cose le hanno sempre fatte, magari a modo loro, magari con le loro con un approccio anche molto fattuale da un certo punto di vista, però le hanno fatte. Io sono fiducioso, anche perché ci vogliono ancora 3 anni per uscire dall'accordo di Parigi, quindi sono 3 anni in cui gli Stati Uniti continueranno a negoziare, a concordare, a spostare, a fare tutte le procedure, certo, insieme con gli altri paesi. Va bene, grazie Jacopo Giliberto, questa era la cronaca del G7 Ambiente che si è chiuso sotto il patrocinio del ministro dell'Ambiente italiano Galletti a Bologna. E queste che sentite invece sono alcune delle voci dalla manifestazione di le manifestazioni di protesta contro la corruzione oggi in Russia, che hanno fatto però scattare feroci repressioni da parte della polizia, reazioni della polizia che ha arrestato centinaia di persone in tutto il paese. Antonella Scott, buonasera. Buonasera. Della redazione Estere del Sole 24 Ore. Antonella, spesso e volentieri inviata in Russia, abbiamo un minuto per spiegare che cosa è successo oggi in Russia. È successo che il leader dell'opposizione Navalny ha cercato di alzare il tiro dopo, forse vi ricordate, le prime proteste che hanno visto in campo soprattutto i giovani il 26 marzo scorso. Questa volta ha provato a sfidare Vladimir Putin proprio nel giorno della festa nazionale russa. Il 12 giugno è il giorno in cui si ricorda la dichiarazione di sovranità che poi portò al distacco dall'Unione Sovietica, quindi oggi era una giornata di grandi celebrazioni con discorsi, spettacoli, hanno cercato, nel centro di Mosca era stato organizzato su una serie di manifestazioni per ricordare la grandezza della Russia. La sfida di Navalny è stata proprio quella di portare la protesta della parte della Russia che non si riconosce in questa coreografia e che invece vede i problemi di tutti i giorni della corruzione in particolare. Quindi il fatto di, insomma, portarla a un livello di attenzione maggiore, direi che dal clamore che c'è stato c'è riuscito. Io devo chiudere, grazie Antonella Scott, ci risentiamo tra pochissimo con Effetto Notte, in realtà con i titoli delle 22, a tra poco.